Italia in controluce. Oggi è il 13 di ottobre, la seconda edizione di Italia in controluce, vi parla Daniele Biacchesi. I primi mesi della giunta di Napoli sono al centro della puntata odierna di Italia in controluce. Barbara D'Amico racconta i primi 100 giorni della nuova giunta guida De Magistris. Io sono assolutamente soddisfatto di questi primi 100 giorni, innanzitutto per il cambio di marcia politico in generale che abbiamo dato all'amministrazione, ritmi forti, impegno, entusiasmo e determinazione in scelte anche difficili. Con pochi soldi, senza soldi stiamo cambiando la città. Poi vorrei ricordare anche l'America's Cup che siamo riusciti a portare a Napoli, la prima tappa del 2012 e l'ultima del 2013, che ci consentirà soprattutto di completare la bonifica a Bagnoli e di rilanciare un'area strategica della nostra città che è Bagnoli, dove nel passato le amministrazioni hanno sostanzialmente fallito. Eliminare il problema rifiuti, ridare il centro storico ai cittadini, puntando su turismo e su un ritrovato senso di legalità. È questa la ricetta messa in atto dalla giunta di Luigi De Magistris per rilanciare Napoli. L'elezione a sindaco dell'ex magistrato, entrato in politica con l'Italia dei Valori, ha rappresentato un forte segnale di rottura con il passato. 10 anni di governo iervolino, spesso contestatissimo per non aver saputo affrontare emergenze come quella dei rifiuti, e il bisogno per Napoli di puntare su nuove energie. Ma se le aspettative sono altissime, il compito per De Magistris è tutt'altro che semplice. Partiamo da cosa è stato fatto in questi primi 100 giorni attraverso le testimonianze dei cittadini di Napoli. Diciamo che proprio il cuore di Napoli è stato liberato, almeno fisicamente, da auto. Ovviamente questo ci mette a pari Napoli con le altre città, grandi città europee che hanno i centri storici, zone pedonali. No, la mia impressione è positiva. Inizialmente ha fatto più cose diciamo di facciata, ma cose pure giuste, come ad esempio mettere, levare le auto blu, mettere le biciclette elettriche per gli assessori. Secondo me un'altra cosa molto ma molto importante è la costituzione dell'ABC, cioè dell'acqua bene pubblico, consorzio pubblico a partecipazione comune. L'acqua diciamo non viene più gestita da enti privati, soprattutto la gestione di tutto questo. Probabilmente si parla anche di padre Zanotelli all'interno del CDA. Cioè, Napoli è una città molto difficile, in 100 giorni non è che ho sentito, cioè ho avvertito particolari cambiamenti diciamo rispetto a prima, ci sono dei cambiamenti diciamo come prospettive, ma in realtà non è che cioè, nel concreto sì, c'è stata adesso la chiusura della la nuova zona a traffico limitato, ma che probabilmente era già in un progetto precedente all'entrata in carica di De Magistris, quindi in realtà non è che vedo grandissimi cambiamenti concretamente, ecco, ad oggi. Insomma, l'impressione è molto buona, però purtroppo siamo ancora lontani da risolvere il problema madre, che è quello della spazzatura. E ho letto questo nuovo piano dei rifiuti e per far partire questa benedetta differenziata porta a porta, perché non ne possiamo più, cioè ci hanno speculato sopra per anni su questo fatto che non volevano che partisse questa differenziata, ci stavano dietro degli interessi oltretutto trasversali fra destra e sinistra. Nonostante il progetto di far partire delle navi cariche di immondizia alla volta dell'Olanda, la Commissione europea ha adottato una procedura di infrazione contro l'Italia a causa di ritardi nella risoluzione dell'emergenza rifiuti a Napoli. Questo è un problema che non riguarda solo il comune in sé per sé, ma è un problema che è molto più radicato, secondo me. La prima prova per De Magistris è arrivata quest'estate con lo sgombero dei venditori abusivi da Piazza Garibaldi e da Via Brin. Sgomberi forzosi, attuati dalla polizia guidata dal capo della municipale, Luigi Sementa, noto per un utilizzo a volte disinvolto della forza. Si è parlato molto della questione sicurezza e del problema di Piazza Garibaldi, dove un sindaco che si è dichiarato antirazzista e schierato con i suoi cittadini sia a destra che a sinistra, di tutti i colori, di tutte le razze. Poi invece c'è il capo della polizia municipale che manganella. Questa forse è l'unica questione su cui si può un po' discutere di De Magistris. Ecco il banco di prova per il neosindaco, inserirsi all'interno delle forze che governano la città senza cedere a compromessi, ma senza neppure scontentare i suoi elettori. Il sindaco di Napoli prende le distanze dagli episodi di violenza. Le operazioni di polizia municipale che hanno interessato Piazza Garibaldi i giorni prima dell'emissione dell'ordinanza del sindaco è qualcosa che non attiene alla responsabilità del comune, perché è qualcosa che attiene a operazioni di polizia giudiziaria che non riguardano la responsabilità del sindaco. Per via Brin, che ricordiamola a chi ci ascolta, è un'area che noi abbiamo individuato per consentire il deposito provvisorio di rifiuti che poi vengono portati trasportati nel porto, messi nelle navi e inviati all'estero. Lì si trovavano in condizioni umane pietose molti immigrati, e noi li abbiamo sì, col termine tecnico che può sembrare sgomberati, ma in realtà li abbiamo individuato loro delle collocazioni dignitose. Eppure i cittadini appoggiano il bisogno di ordine e disciplina. Per me l'unico pericolo concreto è che De Magistris non si faccia comprare, nel senso che non il troppo potere non lo costringa a cedere a certi compromessi. Per il resto tutte le critiche sul passato, sullo sindaco sceriffo, io dico solo ma ben venga, perché per una città come Napoli c'è bisogno di un ritorno alla legalità, come c'è bisogno per tutta l'Italia, ma per Napoli ancora di più, cioè ci vuole qualcuno che faccia rispettare le leggi, perché fondamentalmente è abbastanza, qui c'è l'anarchia da molti punti di vista. Un sindaco del genere, ex PM, secondo me non può farci che bene. Qualcuno è ancora perplesso. De Magistris è un ex PM, uno che a detta del suo diretto rivale alle ultime amministrative, Gianni Lettieri, avrebbe un atteggiamento inquisitorio pericoloso per gli equilibri di un governo cittadino. Tra i primi provvedimenti adottati, infatti, c'è stata la costituzione di un gruppo di controllo interno all'amministrazione comunale per combattere fannulloni e inefficienze della pubblica amministrazione. Una task force di 007 che, secondo il PDL, conferma il rischio di giustizialismo. Gianni Lettieri è molto critico sul punto. Ma io credo che non c'è bisogno di una task force per scoprire se la gente all'interno dell'amministrazione lavora o non lavora, basta prendere i responsabili e fargli fare il loro mestiere. Cioè, la task force è giusto per avere un effetto mediatico su quello che bisogna fare. Fare la task force significa solamente mortificare i dipendenti. De Magistris però è fiducioso. Non chiamiamola proprio così, che è un termine che a me non piace, molto giornalistico. Noi vogliamo valorizzare il personale interno, perché sappiamo che lì ci sono le risorse per far riprendere la macchina comunale e cambiare completamente la città. Siamo convinti che al comune, così come anche in altri luoghi, ci siano anche persone che non danno l'adeguato contributo alla ripresa della città, e ci sono anche sacche di inefficienze. Su quelle vogliamo intervenire, individuando anche cose che non vanno, che ci sono state segnalate dai dipendenti che invece vogliono lavorare e che non tollerano che ci sia chi rimane con le mani in tasca senza operare. E positivo è anche il parere dei napoletani. Sembra una cosa molto fascista, però è molto, una cosa molto positiva, secondo me. Io sarei contento se veramente si riuscisse a scovare le persone che non lavorano per il motivo per cui sono state poi assunte. Altro tema caldo è poi l'America's Cup. De Magistris sarebbe riuscito a portare due tappe preliminari della prestigiosa regata nelle acque campane a Bagnoli, ma per Lettieri il risalto mediatico dato alla giunta dall'aggiudicazione della regata non tiene conto del problema principale del comune: i soldi necessari per gestire l'evento. Noi ci siamo permessi il lusso di rispendere, anzi ci dovremmo, perché ancora certo se lo fanno, permettere il lusso di spendere 40 milioni di euro con la provincia, con la regione, col comune, tutto quello che vogliamo noi, far venire qui una regata e farla a Bagnoli, ma con i problemi che abbiamo in città, mettiamo a posto prima le cose nostre e poi mettiamo la città in vetrina. Eppure proprio il PDL, dopo la vittoria dell'Italia dei Valori, sembra aver fatto un passo indietro nella costante critica dei Magistris. Dal resto dell'opposizione sembrano arrivare per ora solo giudizi positivi sull'operato della neogiunta. Ecco le parole del consigliere UDC, Raimondo Pasquino. Ma io credo che i primi 100 giorni abbiano dimostrato un grande impegno, una grande volontà e una grande determinazione nel fare le cose. Il problema degli 007 è un problema che secondo me rischia di apparire da un lato come punitivo e dall'altro come il toccasana, che purtroppo non potrà essere così, perché il vero problema degli uffici pubblici è avere l'etica dell'impegno e del lavoro, e su questo c'è molto da lavorare. Non è che non c'è concretezza, ci sono le difficoltà che vanno affrontate. Italia in controluce, torniamo domani alle 6:30 su Radio 24.